Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Buongiorno. A chi la di buongiorno? A lei? A me? Sì. Ma lui è il me conosco? No. Ma cosa vuol dire allora con questo buongiorno? Veri di veramente buongiorno? Ma Vasco al mar, ma guarda un po' se ti capita tra i piedi un bamba qualunque la mattina. Il dialogo che avete appena ascoltato è tratto dal film di Vittorio De Sica Miracolo a Milano. Una pellicola che narra la favola di Totò, un ragazzo orfano che sogna un mondo dove buongiorno voglia davvero dire buongiorno. Il film, uscito nel 1951, racconta la vita dell'Italia post-bellica che con fatica ma con grande vigore ricuce le ferite della guerra. Le grandi città vivono un periodo di grande sviluppo culturale. La sera si esce, ci si incontra, c'è una nuova voglia di divertirsi. A Milano aprono numerosi locali dove si balla, si beve e si ascolta buona musica. Proprio lo stesso anno in cui esce Miracolo a Milano, apre in pieno centro a due passi dal Duomo il Santa Tecla, lo storico locale milanese dove hanno suonato i più importanti musicisti del panorama musicale dell'epoca. All'inizio degli anni 50, Milano vive un periodo di grande vigore musicale. Nei locali notturni si possono ascoltare molti musicisti che poi sono diventati veri e propri punti di riferimento della musica italiana. Stiamo parlando di un modo di far musica genuino, non legato alla visione di facili guadagni, spinto invece da una vera passione. La Milan College Jazz Society e prima ancora la Original Lambro sono state due orchestre di jazz milanesi, tra le cui fila hanno suonato grandi musicisti come Paolo Tomelleri, Gigi Allevi, Carlo Bagnoli e successivamente anche Lino Patruno e Giorgio Gaber, prima di dedicarsi alla musica leggera. Il Santa Tecla è il locale più importante dove si fa il jazz, quello vero, americano, quello di New Orleans e del Dixieland, in contrapposizione allo swing, al bebop, che invece si suona alla Taverna Messicana, altro locale storico milanese dove puoi incontrare Franco Cerri o Gianni Basso. Il fondatore del locale, però, non ha molto a che fare con Milano. È un olandese, qua era una macchietta, quello lì, Denler si chiamava. Ed era un appassionato di jazz, è stato il primo ad avere questa idea a Milano di fare questa, che poi ha funzionato molto bene. La voce che avete appena ascoltato è quella di Vanni Moretto, storico componente della Milan College Jazz Society. Anche lui ha suonato in questi locali angusti e maleodoranti, fumosi e sudici, che ricordano le cave esistenzialiste del quartiere latino di Parigi e che accolgono una clientela molto varia: aristocratici annoiati, industriali facoltosi, signore impellicciate e artisti famosi o in cerca di notorietà. Naturalmente, tra i frequentatori di questi locali ci sono anche editori e discografici che, un po' per divertimento, ma soprattutto per cercare nuovi artisti e nuovi successi, trascorrono le serate tra fumo, alcol e ottima musica. Uno di questi personaggi è un uomo alto, affascinante, dall'aspetto imponente, racchiuso nel suo cappotto bianco che gli dà un'aria davvero protagonista. È svizzero, ma da anni ha scelto Milano come residenza e sede della sua attività di editore e discografico. Walter Gertler. Walter Gertler. Negli anni 50 la musica italiana vive un periodo pionieristico. I dischi si fanno, le canzoni si cantano, ma subito dopo la guerra tutti vogliono sentire i grandi successi americani. Per questo motivo Gertler incomincia insieme a suo fratello Ernesto a importare dischi e a licenziare cataloghi esteri per il mercato italiano. Sono gli anni di Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Count Basie. Io e mio fratello Ernesto siamo stati i primi a aver introdotto il jazz in Italia. Le prime pubblicazioni sono del 1948, con l'etichetta Chelson. Sono stati anni incredibili. Siamo stati pionieri in questo genere musicale, sempre alla ricerca di nuovi talenti. A Gertler piace andare in quei fumosi locali dove si può tranquillamente fumare un sigaro bevendo un buon whisky e guardare uno spettacolo di procaci ballerine che fanno da intermezzo tra un concerto jazz e l'altro. È un personaggio carismatico, Walter Gertler, e sicuramente sa il fatto suo. Quando entra al Santa Tecla, avvolto nel suo Montgomery bianco, col cappello in testa, si voltano tutti. È un uomo imponente, e poi ha una vaga somiglianza con Mastroianni, e lui lo sa fin troppo bene. In poco tempo riesce a ritagliarsi un suo spazio nel panorama discografico italiano e contribuisce alla diffusione della musica straniera nel nostro paese, facendo conoscere al pubblico italiano cantanti come Petula Clark, Pat Boone, Ray Charles, i Platters. Oh, yes, I'm the great pretender. Portare in Italia un successo già consolidato negli Stati Uniti è una cosa, ma saper riconoscere grandi talenti è un'altra. Eppure Gertler dimostra di avere un fiuto particolare quando dà fiducia a giovani jazzisti come Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Franco Cerri. Ho sempre amato tutta la musica senza distinzione, la classica, il jazz, e ogni volta che dall'estero arrivava qualche nuovo genere, qualche nuova canzone, cercavo subito di trovare del materiale discografico valido da pubblicare. Al cinema arriva dagli Stati Uniti un film, Il seme della violenza, nella cui colonna sonora c'è un brano cantato da uno sconosciuto Bill Haley intitolato Rock Around the Clock. Nel mondo della musica accade una vera e propria rivoluzione e anche i locali notturni iniziano a inserire questo genere musicale nel repertorio di nuovi artisti nascenti, tra i quali c'è anche un giovanissimo Adriano Celentano. Il tuo bacio è come un rock e ti morde col suo swing. E perciò canto così, oh oh oh oh oh, il tuo bacio è come un rock. Anche al Santa Tecla il rock entra con prepotenza nei gusti dei giovani milanesi che lo frequentano e i discografici non restano certo a guardare. Quando sul palco si esibisce un nuovo cantante con qualche buona capacità, è facile metterlo subito sotto contratto. Celentano è stato uno dei primi cantanti con cui ho lavorato. Era poco più che un ragazzino, inizialmente gli ho fatto cantare solo cover di canzoni americane, ma con scarso successo. Poi, nel 58, ho pensato che fosse il momento di provare a farlo cantare anche in italiano, con il 45 giri Ciao ti dirò, e poi, nell'estate dell'anno dopo, con Il tuo bacio è come un rock. La Galleria del Corso a Milano è il tempio della musica italiana. Tutte le principali case di edizioni musicali e discografiche hanno i loro uffici lì e per autori, cantanti e musicisti la galleria è un punto di ritrovo, inseguendo un successo che però è riservato solo ai migliori, a chi si sa distinguere. Se un cantante cerca un pezzo per il proprio repertorio, va in Galleria del Corso e non deve far altro che scegliere, come in un supermercato, uno spartito da cantare. Ricordi, Suvini Zerboni, Curci, sono solo alcune delle edizioni musicali che hanno il loro quartier generale in Galleria del Corso. Sono gli anni in cui si possono incontrare Testa, Danzi, Nisa, Mascheroni, Kramer. Se non fosse per le automobili che sfrecciano nella vicina Piazza Beccaria, ci si potrebbe aspettare di incontrare persino Giuseppe Verdi. Si respira un'aria magica in Galleria del Corso, pervasa da mille combinazioni di note musicali. Su un tavolo di uno di questi uffici c'è uno spartito musicale che attende di essere preso in mano da un giovane cantante che però non sa leggere bene il pentagramma. Ma andiamo con ordine. Siamo sempre a Milano, ma un po' lontano dal centro, verso sud, dove abita un ragazzino di nome Antonio, figlio di Battista Lardera, un tenore del coro della Scala. Al piccolo Antonio piace cantare e così, dopo qualche recita parrocchiale, entra a far parte del coro della chiesa di Santa Maria di Caravaggio. Lui sente cantare gli altri in latino e ripete le finali di ogni strofa, aggiungendo un tocco artistico personale, quello di raddoppiare le vocali. In Viale Tibaldi 8, proprio vicino a casa sua, c'è una piccola sala da ballo dove suona l'orchestra Angelini. In poco tempo il giovane che canta raddoppiando le vocali ne diventa il cantante ufficiale e le serate nei vari locali milanesi si moltiplicano. Antonio Lardera inizia la sua carriera, ma non è con questo nome che noi lo conosciamo. Il suo nome d'arte è Tony Dallara. Tony Dallara. Io sono nato pittore. La prima cosa, andando a studiare, mi mancava 2 anni per essere ragioniere, poi volevo diventare ragioniere perché allora il massimo era fare diventare ragioniere per andare a lavorare in banca. Studiando volevo continuare la sera per finire, poi mi sono messo a cantare, andavo nelle sale da ballo, non ho avuto più tempo, allora ho continuato a cantare. Però io volevo andare a studiare a Brera, pittura, Brera, ci voleva allora, mi ricordo, come iscrizione dalle 5 alle 10.000 lire, e chi li aveva? Bisognava pensare a lavorare, infatti ho fatto tanti lavori, tra cui il fabbro, dove fanno i lampadari in fabbrica e compagnia, il benzinaio e tante altre. Bisognava pensare a lavorare per portare a casa dei soldi, perché cinque fratelli e madre e padre, perciò eravamo in sette in casa, bisognava aiutare un po' la famiglia. Quando si è in tanti, appena si può, bisogna rimboccarsi le maniche. E Tony deve accantonare il suo desiderio di studiare all'Accademia di Brera per trovare un guadagno più immediato ed essere di supporto alla famiglia. Un giorno, in galleria del corso, viene avvicinato da un altro musicista, Paolo Ordanini, che gli propone di entrare a far parte di un complesso. Il mio complesso si chiamava Rocky Mountains Old Time Stampers, di cui si faceva, tra le tante musiche, musica western, di cui erano bravissimi a suonare il violino, alla western e anche altri strumenti, chitarre, e io suonavo la famosa lavagna, si chiamava proprio la lavagna per lavare i piatti, cioè per lavare i panni, e dopo su c'era una specie di graticola di ferro, di alluminio, e con la spazzola si faceva il ritmo così. Quando Tony Dallara diventa il cantante dei Rocky Mountains Old Time Stompers, gli sembra di avere trovato l'America. Per tre serate alla settimana si prendono ben 10.000 lire e Tony capisce che con la musica si può anche guadagnare. Dopo tante serate in provincia, il gruppo è pronto per affrontare il pubblico esigente del Santa Tecla di Milano. Abbiamo detto che il Santa Tecla è il locale più alla moda del momento, è frequentato da industriali, aristocratici, persone del jet set milanese che vogliono vivere le atmosfere che arrivano dal continente americano. Io dovevo andare lì a cantare, però cantavo solo roba americana, inglese, a parte quella attuale del momento, perciò roba di Sinatra, di Martin, Ella Fitzgerald, tutti quei pezzi che in quel momento andavano molto bene. I Rocky Mountains dopo poco tempo si sciolgono e dalle loro ceneri nasce il complesso I Campioni, di cui Tony Dallara diventa la voce solista. E noi facevamo anche jazz, perché anch'io cantavo canzoni jazz, non cantavo canzoni, solo canzoni tipo melodico così o meno, sempre forte nel mio genere, nel mio modo di cantare. I Campioni diventano degli habitué al Santa Tecla e ottengono il loro primo contratto con un ingaggio di 2.000 lire a serata. Nel locale si continua a suonare il jazz, ma il rock suonato dalla band con la voce potente di Tony Dallara si guadagna sempre più spazio. Con l'avvento dei Platters, che sono venuti in Italia attraverso il film Rock Around the Clock, sentendo questa orchestra e questi cantanti che cantavano le famose canzoni col famoso terzinato che non conosceva ancora nessuno, allora benissimo, io col nostro complesso, col mio complesso I Campioni, abbiamo inserito questi pezzi nuovi americani, tra cui Only You, The Great Pretender e tanti altri che io cantavo. Così, alternando le canzoni dei Platters e di Frank Sinatra a qualcosa di più melodico e italiano, Tony Dallara diventa un protagonista delle serate al Santa Tecla, non solo per la sua grande e potente voce, ma anche per la simpatica insistenza con cui cerca di farsi notare dalle persone che contano. Sentite un po' come lo ricorda Vanni Moretto, che nel locale suonava con la Milan College Jazz Society. A noi, per noi erano pescatole pazzesche, perché veniva lì e fatemi cantare, e aveva tutte queste musiche di Frankie Lane e dai film eccetera, aveva una voce potentissima, ecco, però noi facevamo a Santa Tecla altre cose, mi pare il martedì e il venerdì facciamo jazz. Tony ha un carattere esuberante, la gente lo ascolta volentieri e ogni volta che finisce di cantare una canzone gli applausi sono numerosi. Ma gli applausi si fanno solo a quelli bravi e prima o poi, se ne ricevi così tanti, finisci con l'attirare l'attenzione di qualcuno che gli applausi è capace di trasformarli in denaro. Walter Gertler in questo periodo lavora soprattutto sul jazz. Non è ancora interessato a buttarsi nel genere delle canzoni stile Rock Around the Clock, ma il mondo lentamente sta cambiando e il mercato discografico prova sempre un maggiore interesse verso questo tipo di musica. Io mi sono sempre occupato di jazz. È il genere musicale che la gente vuole e io non faccio altro che dare spazio a tutti quei musicisti che riempiono i locali e le sale da ballo con piccole orchestrine sulla scia delle grandi orchestre americane. Ma con l'arrivo di quel film, Rock Around the Clock, i giovani cominciano a ballare in un modo diverso e allora mi accorgo che questi nuovi cantanti con i capelli pieni di brillantina forse stanno cambiando il mondo. Tony Dall'Area non è certo un cantante sullo stile di Billie Holiday o Jerry Lee Lewis, ma la sua è una voce potente e non mielosa come quelle trasmesse da Leyer alla radio, dove si possono ascoltare Giorgio Consolini, Gino Latilla e Carla Boni. Una sera al Santa Tecla, Gertler è lì, come spesso accade, con in mano un buon whisky e l'occhio distratto dalle ballerine del locale. D'un tratto, dopo l'ultima esibizione della Milan College Jazz Society, sale sul palco un ragazzotto con i capelli pettinati a modo. Un altro Consolini, pensa Gertler, che mostra di dedicarsi più al suo whisky che al cantante appena arrivato. E invece il giovane cantante dei campioni comincia a intonare le note di Only You dei Platters, attirando l'attenzione di tutti i frequentatori del locale che rimangono rapiti dalla forza e dal vigore con cui aggredisce la canzone e dalla passione con cui la interpreta. Sono tranquillamente seduto al mio tavolo, in compagnia di due graziose signorine che ho conosciuto da poco, quando all'improvviso sento questo ragazzino, ben pettinato, che tira fuori una voce che mai mi sarei aspettato di sentire. È veramente forte. Tutti lo ascoltano e lo applaudono. Non è il momento di perdere tempo. Certe occasioni si devono prendere al volo. Tony Dall'Ara ha appena finito la sua canzone e un cameriere gli fa un cenno. Tony si avvicina e il cameriere gli dice che c'è Gertler, quello dei dischi, che gli vuole parlare. Tony non è certo il tipo che si lascia intimidire da quell'uomo alto vestito di bianco e si avvicina al tavolo. Gertler gli porge un bicchiere e gli fa cenno di sedersi. Si parla di musica, di donne, di film americani. E intanto il tempo passa e la notte scivola via nell'odore pungente del fumo che pervade tutto il locale. Il tempo però sembra essersi fermato per Tony Dall'Ara e ascolta quell'uomo dallo strano accento svizzero che gli dice che Milano sta cambiando, che tutto sta cambiando e che non bisogna mai smettere di cercare nuove strade da percorrere. Non si accorge che ormai è notte fonda e che il locale sta quasi per chiudere. Finché Tony, improvvisamente, si sente dire quelle parole che ogni cantante all'inizio della sua carriera sogna di sentirsi dire. Ma io ho una casa discografica e così, e mi disse queste testuali parole: ragazzi, trovate una canzone e proviamo a fare un disco. L'emozione è grandissima. Suonare tutte le sere in un locale dove la quantità di aria respirabile è nettamente inferiore al fumo e all'alcol che lo pervade è un sacrificio che si riesce a fare solo se può servire a qualcosa. Ma è la sera giusta e finalmente il miracolo a Milano tanto inseguito è alle porte. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo i sogni di successo di un giovane cantante appassionato delle canzoni dei Platters, che in una fumosa notte milanese ha appena incontrato l'uomo che può cambiargli la vita. Lo abbiamo lasciato al Santa Tecla mentre Walter Gertler gli propone di fare un disco, a patto però di trovare una buona canzone. La mattina dopo, il risveglio di Tony Dall'Ara è pieno di ottimismo. Si è aperto uno spiraglio nella sua carriera e non intende certo perdere una simile occasione. Così esce di casa con un solo obiettivo, quello di trovare una canzone che sia abbastanza valida da piacere a Walter Gertler. Il segreto di un successo discografico non dipende solo dalla bellezza di una canzone, ma anche dal modo con cui viene interpretata. Quante sono le canzoni che sono state proposte da alcuni cantanti e poi sono diventate famose solo con la reinterpretazione di qualcun altro? Questo perché la personalità che un interprete riesce a dare a una semplice successione di note musicali può trasformare un insuccesso in un memorabile capolavoro. Tony Dall'Ara ha una voce potente e non ha nessuna intenzione di tenersela dentro. Allora mi sono messo a cercare nelle case editrici c'erano tutti in Galleria del Corso a Milano, una canzone, qualche canzone da fare. Tony capita quindi negli uffici della casa editrice Suvini Zerboni e comincia a gironzolare fra un ufficio e l'altro. Sulle scrivanie ci sono i cosiddetti stamponi. Attenzione alla parola stampone. Stampone, canto e piano, le note e sotto le parole. In questo periodo le case editrici, quando ancora una canzone non è stata cantata da nessuno, preparano soltanto lo spartito della traccia di pianoforte con la melodia e la traccia del canto. Solo in un secondo momento, quando la canzone viene assegnata, si preparano gli spartiti di tutte le altre parti dell'arrangiamento. E ce ne sono tanti di stamponi su quei tavoli, uno accanto all'altro. Ma per uno che le note non le sa riconoscere così bene sul pentagramma, bisogna usare l'istinto. E può capitare che sia la canzone a scegliere te. E c'era una canzone, c'erano 7, 8, 10 canzoni. Io non ho mai saputo, a scuola mi hanno insegnato le note, ma solo fa la do mi e mi so si re fa. Punto e basta. Allora, senza sapere una riga, tocco in mano questo foglio, quell'altro foglio, prendo questa mano e lì c'era un pianista che suonava, il maestro della casa editrice. Gli faccio: maestro, scusi, mi può far sentire come fa questa canzone? Il maestro in questione è Alessandro Taccani, proprio l'autore della canzone, che non sembra avere troppo tempo da perdere. Dice: ma devo scrivere una musica, devo scrivere una cosa, non posso. Ma no, scusi, guardi, forse faccio un disco. Allora mi fa sentire questa canzone, suonata così, no? Proprio. Vabbè, guarda, mi aggiungo a qui una cosa perché voglio che venga più lunga prima di ricominciare. Lui, senza voglia, sì, va bene, va. E me l'ha scritta. Me l'ha data, io e il complesso sapevamo come eventualmente farla, col terzinato, perché era un ritmo nuovo che a noi piaceva, non conosceva ancora nessuno. E gli abbiamo date a un chitarrista bravissimo che si chiamava Dacco, che ci fece quell'arrangiamentino del come prima. Come prima, più di prima, t'amerò per la vita, la mia vita ti darò. Un giovane cantante appassionato delle canzoni dei Platters è stato magicamente scelto da uno spartito musicale appoggiato su un tavolo in mezzo a tanti altri, quasi fosse lì ad aspettare solo lui. Negli uffici della Music, invece, Walter Gertler attende una nuova possibilità di successo. Con me c'era anche Ezio Leoni, che era il mio direttore artistico. Anche lui aveva notato Tony Dall'Ara e, come me, era convinto che avrebbe cambiato decisamente il modo di cantare le canzoni in Italia. Un paio di settimane dopo la chiacchierata a Santa Tecla, Tony venne negli uffici di Corso di Porta Vercellina e ci disse di aver trovato un pezzo fortissimo. Il terzinato in Italia, a parte i Platters, non lo ha mai cantato nessuno. E quando dal giradischi l'acetato di Come Prima suona le note inconfondibili della canzone, le segretarie della Music lasciano le loro scrivanie e si affacciano nella stanza da cui si sente uscire quella bella canzone. Gli sguardi di Ezio Leoni e Walter Gertler si incrociano per un momento e l'intesa è immediata. Il disco si farà. Negli anni 50 il mondo discografico è decisamente diverso da quello dei giorni nostri. Non ci sono radio che mettono in heavy rotation un brano facendolo ascoltare fino alla nausea. Non ci sono i video musicali capaci di far piacere anche un pezzo insignificante. Non ci sono le suonerie dei telefonini. Quando una canzone ha successo, avviene semplicemente perché è bella, è orecchiabile e alla gente piace cantarla. Siamo andati in sala di incisione e io ho inciso questa canzone. Incidendo questa canzone, l'hanno messa poi nei jukebox, è andata in tutto il mondo la mia voce, il mio modo di cantare, attraverso questo disco. Il pubblico fino a quel momento è abituato a sentire cantanti provenienti dall'EIR, la radio nazionale, i cosiddetti melodici, quelli che cantano le canzoni sulla mamma, la famiglia e l'amore sussurrato, come per esempio Giorgio Consolini. Erano gli inizi di una epoca bella, E poi è venuta la televisione che ci ha rovinati, perché eravamo conosciuti come voce e qualcuno ci ha rimesso quando si è dovuto far vedere. Con Tony Dall'Ara nasce una nuova categoria, quella degli urlatori, le cui canzoni trattano sempre gli stessi temi, ma con un'impostazione verso il canto completamente differente. Non potevo sentire sempre parlare d'amore in silenzio, soffuso. L'amore bisogna gridare, bisogna dirlo forte, capito? Abbiamo capito. E lo capisce anche il pubblico, che in poco tempo dimostra di apprezzare moltissimo questo nuovo modo di cantare. Walter Gertler, che ha iniziato a pubblicare le canzoni di nuovi artisti emergenti con l'etichetta Music, distribuisce il 45 giri di Come Prima in tutti i jukebox, sia in Italia che all'estero. Il disco diventa un successo mondiale e consacra Tony Dall'Ara come uno dei cantanti emergenti più importanti del momento. È una vera rivoluzione, come ricorda Walter Gertler. Tony Dall'Ara fu messo sotto contratto e in un certo senso segnò un cambiamento nel mio modo di lavorare. Iniziai a dedicare un po' meno tempo al jazz e cominciai a lavorare su altri cantanti come ad esempio Celentano, Gabriella Ferri e ancora Tenco e Iannacci. Negli anni 50 la parola royalties è priva di significato. I cantanti guadagnano dalle serate, dai concerti, ma non dalle vendite dei dischi come invece accade oggi. Quando un cantante incide una canzone e viene fatto il 45 giri, normalmente riceve una somma di denaro, un compenso che per la casa discografica vale come liberatoria da ogni impegno futuro di pagamento. Quindi un cantante non si arricchisce proporzionalmente al numero di copie vendute. E se poi ci si mettono anche gli obblighi di leva, il danno economico non è indifferente. Poi, sfortunatamente, non so che cosa è servito, ma comunque va bene, sono andato a fare il militare, ho perso un anno e mezzo di lavoro, di soldi e compagnia, però i dischi sono andati avanti. Adesso Tony lo aspettano a Novara, tra i carristi. E al suo posto, nei campioni, subentra un giovane cantante romano, Robby Matano. Tony Dall'Ara, dopo il successo che c'è stato, è andato militare e i campioni sono venuti a Roma per fare delle trasmissioni televisive, però dovevano cercare un cantante per sostituire Tony. E sono venuti in un night dove io lavoravo a Roma e mi hanno fatto la proposta e io naturalmente ho accettato, perché in quel momento lì loro erano il massimo che c'era in Italia, e quindi sono venuto a Milano, ho conosciuto Tony, siamo diventati amici certamente. Domani sera scrivo mia madre che non voglio tornare. Sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale. Astro del cielo. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati abbiamo visto un giovane cantante che riesce a convincere un discografico appassionato di jazz a incidere una canzone di successo. Ma proprio sul più bello deve partire per il servizio di leva. A Novara Tony è costretto a rinunciare a tutte le interviste, agli inviti per le trasmissioni televisive, all'incisione di nuove canzoni, a vivere quel successo che ha raggiunto con tenacia e fatica. Ma per fortuna un anno passa velocemente e Tony si ributta nella mischia. Al primo concerto dopo la fine della leva, a Pescara, ci sono 30.000 persone ad aspettarlo. Sono stato proprio senz'altro l'unico ancora oggi di cantante italiano che aveva 7 canzoni in classifica. Perché? Perché ogni 2 mesi ero in sala di incisione, perché quando il disco andava male, tipo Ti dirò compagnia, diceva ma quanto va? Questo disco vende poco, sì, quant'è? Dice siamo sulle 450.000 copie. Era quando si vendeva poco. 450.000 copie sono un numero enorme di dischi, se pensiamo che oggi, tanto per fare dei confronti, per ottenere un disco d'oro basta venderne 30.000. Comunque questo è un risultato che solo pochi cantanti riescono a raggiungere. La differenza sostanziale rispetto al passato sta nel fatto che negli anni 50 la promozione di un disco avviene solo ed esclusivamente tramite i jukebox. A quell'epoca in ogni bar, circolo, ristorante o qualsiasi altro punto di ritrovo si trova un jukebox che contiene i 45 giri delle canzoni più in voga del momento. È ovvio che le case discografiche stampino molte copie per poter rifornire tutti i jukebox distribuiti sul territorio nazionale. Le radio private non esistono e i giovani conoscono le canzoni andando a ballare o scegliendo di ascoltare un brano nel jukebox. E se qualcuno non trova il disco preferito, va a lamentarsi con il proprietario del bar, che è costretto proprio dalla richiesta del pubblico a inserire il 45 giri mancante. Tra il 1958 e il 1959, Tony Dall'Ara incide almeno 5 dischi di successo. Ti dirò, Brivido Blu, Non Partir, Ghiaccio Bollente, Giulia. Ripeto, ogni due mesi, ogni due o tre mesi bisognava incidere e fare un sacco di altre canzoni. E difatti ogni disco che poi usciva diventava un grande successo, sia la facciata A che la facciata B. Ma la cosa forte è stata proprio io, perché col mio modo nuovo di cantare, di fare musica e di fare canzoni e di cantarle in quella maniera lì, tutti gli altri si sono messi anche a imitarmi. Anche i grandi cantanti della generazione precedente come Luciano Taglioli e Claudio Villa cominciano a cantare alla maniera di Tony Dall'Ara, abbandonando la dolcezza del primo dopoguerra per scegliere un tono decisamente più sostenuto. Poi, nel 1960, arriva Sanremo e anche Gertler è pronto. Tony venne chiamato da Renato Raschel. Allora si cantava in coppia la stessa canzone e lui aveva questo pezzo. Si intitolava Romantica. Tony lo ascoltò. E poi suggerì di tagliare, accorciare la strofa per arrivare più velocemente al ritornello. Ed è stata l'intuizione che ha cambiato la canzone, l'ha trasformata in un successo. Con Romantica, Tony Dall'Ara e Renato Raschel vincono il festival. Ma è la versione del cantante urlatore quella che rimane nella storia della musica italiana. Nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Romantica è stato sicuramente il più grande successo di Tony Dall'Ara. Se andiamo a vedere quanto tempo è trascorso da Come Prima, che è il primo disco che lo ha lanciato, sono passati solo 3 anni. Ma sono stati 3 anni intensissimi di lavoro continuo, senza sosta, un periodo in cui sono stati fatti tanti dischi e Tony ha vissuto un momento di grandissimo successo. La trasmissione musicale più famosa che tiene incollati milioni di italiani davanti ai televisori è Canzonissima. Tony Dall'Ara vince sia l'edizione del 1960 con Romantica, sia quella del 1961 con un altro grande successo, Bambina Bambina. È sicuramente uno dei più famosi cantanti d'Italia e rapidamente i suoi successi trovano fortuna anche all'estero. Iniziano le tournée negli Stati Uniti. La prima data è proprio quella del Carnegie Hall di New York, dove canta con il grande Perry Como. Perché praticamente il mio modo di cantare, i miei dischi, hanno fatto il giro non solo dell'Europa, ma sono andate anche in America. Ecco le varie conoscenze con Perry Como, Dean Martin, Nat King Cole. Tony è veramente una star internazionale. I suoi successi vengono tradotti in molte lingue e Dalida lancia in Francia la sua personale versione di Come Prima. Nel frattempo, Walter Gertler continua la sua brillante carriera di discografico. I successi di Tony Dall'Ara sono solo i primi di una lunga serie e l'istinto dello scopritore di talenti lo porta a produrre nuovi artisti come Adriano Celentano, Nicola Di Bari, Peppino Gagliardi. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1960 e il successivo trionfo a Canzonissima nel 1961, però, il vento per il cantante urlatore comincia a cambiare. E siccome in quel mio momento bisognava dare tante canzoni, allora ecco perché ogni 2 o 3 mesi era in sala di incisione, perché vendendo tanto c'era una continua richiesta, allora dovevo incidere tante canzoni e tutte queste canzoni hanno fatto grande successo. Averne fatti tanti in un blocco, dopo chiaramente non è che puoi sempre trovarle. Eh già, quando si crea una certa aspettativa, poi il pubblico diventa sempre più esigente. Inoltre Tony deve anche fare i conti con un nuovo genere che si affaccia nel panorama musicale, il beat. Il beat è un genere musicale che nasce nei locali dei docks portuali di Liverpool agli inizi degli anni 60 e contagia in poco tempo tutta l'Europa. Il complesso di maggior successo è sicuramente quello dei Beatles, mentre in Italia nascono nuovi gruppi come i Rockies, l'Equipe 84, i Dick Dick, i Camaleonti, fino alle voci soliste di Caterina Caselli e Patti Pravo. Poi sono sorti altri cantanti, sono sorte altre orchestre, altri modi magari di suonare, cose straniere. Allora, nascendo tanti complessi, tanti cantanti, che anche loro poi si sono messi a cantare in quella maniera lì. Nascendo tanti complessi e tanti cantanti, è inevitabile che per Tony Dall'Ara inizi un periodo di declino, almeno dal punto di vista delle vendite discografiche. In realtà lui continua a incidere nuove canzoni e rimane sempre sulla scena discografica per alcuni anni, ma non riesce più a ripetere gli exploit degli inizi. Il mercato discografico si evolve e tutto l'ambiente perde buona parte della poesia che ha caratterizzato la cosiddetta fase pionieristica dei primi anni 50. L'avvento della musica digitale ridimensiona l'industria discografica italiana. Anche per i Gertler è tempo di ridurre gli organici, inventare strategie nuove, trovare sbocchi per un mercato sempre più asfittico. Al timone della società oggi c'è il figlio di Walter Gertler, Boris, e il lavoro che si sta facendo è un lavoro di digitalizzazione dei vecchi supporti fonografici. Al suo fianco c'è sempre comunque l'amico Vanni Moretto. Però un momento favorevole per riprodurre ancora i vecchi successi, purché vengano fatti in versione originale, per esempio rieditare ancora Celentano, i dischi di Celentano, i primissimi di, non so, di Annaci, di Tenco, eccetera, dove usiamo l'accortezza di pubblicare le stesse buste, le stesse cose, le stesse note, c'è una ricerca diciamo storica di questo. Se invece vi capita di passare a Milano, in zona Sempione, vicino alla gigantesca antenna della RAI, vi può capitare di vedere uscire da un supermercato un attempato ma ancora vigoroso Tony Dall'Ara, che tra un concerto e l'altro, sempre in giro per l'Italia e per il mondo, alterna la sua attività di cantante con quella altrettanto importante di pittore. A Tony non piace come gira oggi il mercato discografico. Se la prende con i nuovi cantanti che non conoscono le canzoni del passato e che talvolta fanno successo senza neanche saper cantare. Come dice lui, sono canzoni senza melodia. Melodia vuol dire tipo canzoni, tipo sonorità che uno se la può sentire, godere e cantare. Perché fare canzone vuol dire non solo cantarla dal cantante che la lancia, ma che la possono cantare anche gli altri. Ma oggi purtroppo questo fatto qua è finito. Bambina, bambina, vivo solo per te. Ti stringo tra le braccia, dimenticando il mondo. Sei con me, accanto a me. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.